e fa impianti elettrici civili e industriali. Sì, gli auguri li fa proprio a lei che ha magari l'impianto elettrico che non funziona proprio bene, che ogni tanto le dà problemi, ogni tanto le salta la corrente. Tanti auguri, un buon Natale e un felice anno nuovo. Bells on bobtail ring, making spirits bright.